Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Gino Paoli, classe 1929, genovese d'adozione, artista. Il sapore del mare fa esplodere la sua carriera nel 63. Musica, donne, whisky, applausi, poesia, tutto e tanto. Mira il suo cuore e dice: avevo tutto e non sentivo più niente. La pallottola è ancora lì come una spina. Dal 2013 è il presidente della SIAE, la società di autori ed editori, e si batte per far sentire la voce della cultura. Oggi, disse e dice, finalmente ho imparato a suonare me stesso. Prossima tappa, Sanremo. È sempre un'emozione, Sanremo, Paoli? Ma io penso che qualsiasi palco è un'emozione. Ecco, però il palco di Sanremo, che al di fuori della retorica è un palco normale, anche un po' piccolino, in realtà qualcosa di magico ce l'ha, è vero o no? Sì, il magico è dato dalla storia di Sanremo, e anche la storia brutta di Sanremo, che è la storia tragica. Certo. Dove c'è morte, dove c'è dolore, fatica, dolore, dove c'è eliminazione, dove c'è esaltazione, nasce anche una sorta di magia. Certo. Sanremo però negli anni si è trasformato sempre di più in uno spettacolo televisivo, sostanzialmente. Mm. Questo ha fatto bene o male la musica? Male. Male, eh? Perché? Perché l'immagine come priorità toglie alle altre qualità quello, certo, che la dovrebbe... musica è altro soprattutto, certo. Ecco, ma musica adesso vuol dire quasi soprattutto talent, e cioè, quindi è ancora peggio. Beh, talent, siamo sul campo di prendere 10-20 persone, buttarle in pasto ai leoni, se stiamo parlando del Circo Massimo. Chi si salva? Chi si salva forse avrà qualcosa, forse avrà qualcosa per pochissimo, forse invece no. Però in fondo, se uno lo guarda da un altro punto di vista, sono momenti di selezione come lo erano anche il Cantagiro, Mille Voci. No, perché? No, perché il Cantagiro era comunque di persone che avevano già fatto la gavetta o cose del genere. E quindi è che quello erano preparate che a una storia. Manca la gavetta, diciamo, coi talent. Questo manca da tutte le parti. No, ma adesso parlando questo, questo è cosa, vero, sì. Hai capito cosa sto parlando. Ho capito benissimo. Senta, e dice che la natura di un autore cambia se scrive per avere successo o perché non può farne a meno. Mm-hmm. Ecco, che cosa cambia? È una vecchia storia che di quando ero giovane, che sono andato a sentire una cosa di jazz, concerto di jazz di Norman Granz, e sono andato a parlare con Lester Young, che era un sassofonista, e gli ho detto: come si fa a suonare in quella maniera lì? E lui mi ha risposto: play jazz, slap it off. Cioè, come farsela addosso, perché non ne puoi fare a meno. Ah, certo. E beh, è questo, cosa cambia? È un'esigenza, insomma, profonda. Ma c'è la differenza tra l'artigiano, il professionista e l'artista, che sono due cose diverse. Il professionista può essere bravo, più bravo, ancora più bravo. L'artista può essere anche cattivo, ma la questione è che lo fa perché non può fare a meno. Non può farne a meno. Cioè è una sua, chiamiamola vocazione. Vocazione, ecco. Che è una bella parola, non brutta. Lei è stato un grande autore dell'amore, non c'è dubbio, ha anche amato molto. Ecco, l'amore che cos'è per lei? Se lo sapessi, se lo sapessi avrebbe finito il fascino. No. Noi uomini amiamo le cose che non sappiamo, cioè, siamo affascinati dalle cose che non sappiamo. Anche la Jürsenar mi ha detto: l'amore non si può definire. Non era mica stupido. No, per niente. Ma si può vivere, allora mettiamola così, si può vivere senza amore? Secondo me non esiste la vita senza amore, nel senso che per amore noi sentite sempre il lato positivo, mentre invece anche odio è amore, cioè è tensione. E anche tanto dolore. È tensione, l'amore, la tensione, l'amore verso la vita è tensione, no? Certo. Quindi... Ma a Sanremo lei sarà accompagnato da Dani Lorea, canterà degli omaggi a Lauzi, a Bindi, a Tenco, De André, ecco tutti i grandi amici suoi. Nel suo cuore ce n'è uno però un po' più grande degli altri come amico? No, quello che mi manca di più è il più piccolo, è il più piccolo, perché stranamente questo piccolo uomo di un coraggio incredibile, perché un giorno dovrò raccontare che cosa, perché... Che è Bindi? No, è Bruno. Ah, Lauzi. Bruno era un omino piccolo ma con un coraggio da leone. E forse io amo le persone che non mi amano, o perlomeno che sono in contrasto con me. Basta guardare mia moglie. L'attenzione. Basta guardare mia moglie che non è mai d'accordo con me. E con che Bruno fortuna. c'era questa antitesi sempre. Però con un affetto straordinario profondo. E oggi, tra parentesi, l'altro giorno si parlava con Franco Reverberi, che è un altro degli amici che non abbiamo citato, però era forse il determinante di tutto quanto, perché è per colpa sua che abbiamo cominciato tutti. E lui, anche lui diceva, beh, sai che quello che mi manca di più, stranamente, è Bruno. E quindi, e l'abbiamo detto di Lauzi. Bindi, mi dica una cosa di Bindi. Bindi era la persona più buona del mondo, la più scaroniata del mondo. Troppo in anticipo. Massacrato, e lo diceva lui, se avessi rivelato la mia omosessualità 5 anni dopo sarei Renato Zero, diceva così. E De André? De André è un indotto, è sempre stato un indotto, nel senso che io e Arnaldo l'abbiamo buttato a calci sul palcoscenico perché se non ce la faceva andare fuori. È uno che è stato affascinato totalmente da un cantante francese, un attore francese che si chiama Brassens, e che ha influenzato la sua vita. E Tenco? Luigi era il mio fratello minore. Era fratellino. Il fratellino. Ecco, sì. Ma della storia di Tenco noi gli dedicheremo una puntata. È stata scritta la parola fine secondo lei o no? Sì. Assolutamente. Ma no, era scritta nel momento che è successa. Che si è suicidato. Sì, cioè noi sapevamo benissimo perché si era suicidato, tutti quanti. Perché era impasticato fino al collo con delle pasticche, delle cose che avevano scoperto lui e Frezza e Piero l'italiano in Svezia, dove praticamente delle droghe nuove. Non è anche una droga, era una buffonata, nel senso che lì. Ma e questo l'ha spinto a spararsi? Sì, perché ti sdoppiava. Questa cosa che prendevi, che poi è facile perché era Pronox, che è un sonnifero con whisky. Comunque tutti questi artisti che abbiamo sdoppiava e quindi non eri consapevole. Ti guardavi vivere, poche parole. E quindi tutti questi artisti, dicevo, che di cui abbiamo parlato, una cosa in comune ce l'hanno, che è Genova. Ecco, è un caso? No, non è un caso, no, come non è un caso che l'artista non nasca mai nella grande città, ma nasca nella provincia. La provincia comprime, è una cappa, no? È la cappa che costringe a venire fuori, a trasgredire. L'artista è un trasgressore, certo. È uno che si ribella dei limiti. Quando non esistono i limiti, in città non esistono i limiti, certo. Non c'è niente non trasgredisci niente, quindi non ti viene in mente niente. A Genova avete celebrato, l'ha citato prima, un amico come Arnaldo Bagnasco. Ecco, in una parola, cos'era Bagnasco per lei? Più di mio fratello, il mio alter ego, la persona che amavo di più. Senta, lei ha cantato, eravamo 4 amici al bar che volevano cambiare il mondo, bella canzone. E gli altri 3 chi erano? E gli altri 3 possono essere chiunque. Ah, così proprio, non è che erano nomi e cognomi, non c'erano. Il mondo non lo avete cambiato in realtà, però la canzone sicuramente un po' sì, è soddisfatto dell'esito? No, nel senso che l'iniziativa che abbiamo dato noi, che la canzone potesse essere un mezzo per esprimersi, era una cosa. Sì. La canzone è tornata a essere non un mezzo per un prodotto, ma un mezzo per avere qualcosa. Senta, per cambiare il mondo, lei però è diventato anche deputato indipendente eletto nelle liste del Partito Comunista. Chi è che l'ha convinto? Ma c'era una troupe che era fatta da Augias, Occhetto, D'Alema e Borgna, che mi hanno chiamato. Che l'hanno convinta? Mi hanno chiamato e mi hanno detto: abbiamo bisogno di te, perché abbiamo bisogno di chiunque, perché in questo momento siamo nella cacca e bisogna assolutamente fare qualcosa, e tutti gli aiuti sono. E che cosa le hanno fatto fare poi? Cioè, ero andato per fare la cultura e fare la vigilanza Rai. E dove è finito? Ai trasporti. Ma mi sembra giusto. Senta, essere di sinistra oggi cosa vuol dire per lei? Avere il senso dello Stato. Senta, anche Grillo fa parte del gruppo dei suoi amici storici. È amico storico e basta o è anche leader politico? No, è solo amico. Solo amico. E il Grillo leader politico l'ha stupita? No, credo che lo stupore sia di tutti, compreso lui. Ah, lui è stupito di se stesso? È stupito del risultato che ha avuto, non lo avrebbe mai supposto, credo. Lei... Almeno come abbiamo nella nostra, voglio dire, diciamo, intimità, non credo che mai abbiamo pensato che potesse essere il risultato potesse e non lo pensava neanche lui? No, assolutamente, secondo me no. Ma lei dice che Grillo però è in totale buona fede, crede in quello che fa e che dice, è vero? Sì, questo lo credo. Ma infatti è per questo che non gli tolgo la stima. E quindi lo stima tuttora anche quando è in disaccordo? Sì. È molto in disaccordo? Non sono quasi mai in disaccordo su quello che sono le sue idee, mentre sono assolutamente in disaccordo sul come le porta avanti. Cioè dovrebbe lasciarli un po' liberi questi deputati? Farli partecipare? L'ultima volta che siamo stati a fare una cosa insieme per l'altro dei miei amici, che è Flavio Gaggero, che è un dentista di Pegli, che ci costringe ogni volta a fare, che poi è quello che ci costringe a fare degli spettacoli insieme, lui è andato sul palco, ha parlato lungamente sul fatto che i ragazzi bisogna lasciare la voce agli altri, ce ne aveva sul palco, ha parlato solo lui. Senta, lei però adesso ha accettato di fare il presidente della SIAG, un altro modo di fare politica, che è la società degli autori. Ha scelto di fare politica così, perché ha accettato? Perché la SIAE è il baluardo di libertà e di protezione degli artisti, creato da artisti, cioè la SIAE è stata creata... Vi autoproteggete, insomma. La SIAE è stata creata da artisti che non volevano che le loro cose di qualsiasi tipo fossero gestite da gruppi terzi. Economici o terzi o editori, eccetera, eccetera, e hanno praticamente costruito la SIAE autogestita. E quindi ha accettato per questo quando gliel'hanno proposto? Ma io credo che la libertà sia una delle cose più da coltivare che ci sono a sto mondo, e credo ancora che ci sia un attacco pazzesco al diritto d'autore, quindi alla libertà. Ecco, si diverte a farlo? No. No, nel senso, è una cosa di servizio proprio. È una cosa di dovere, nel senso che purtroppo questo senso del dovere è una malattia che mi ha attaccato mio padre, che non apprezzo. Non guarisce. Neanche, non apprezzo. Non guarisce. Senta, la SIAE oggi però è molto criticata. In realtà viene vissuta spesso come un carrozzone. E se non ci fossero, però, se non ci fosse la SIAE, gli autori starebbero meglio o peggio? Sarebbero peggio se si considerano gli autori persone che hanno la voglia di essere liberi. Su questo non ci sono dubbi. La SIAE è considerata un carrozzone, la SIAE che c'era. Sì, no, è cambiata completamente. Ancora oggi continuano a accusare la SIAE delle cose che c'erano e che con la nostra... Cioè non si vuol vedere quello che è cambiato. Esatto. Ma c'è un attacco violento al diritto d'autore in generale. Ecco, infatti di questo volevo parlare. Senza la SIAE ogni autore dovrebbe in qualche modo negoziare da solo i suoi diritti con i giganti della televisione, di internet, quindi perderebbe sempre. Ma no, a parte il fatto che non è vero che perderebbe sempre, perché dipenderebbe da quanta notorietà ha. Ah, ma certo, quindi bisogna arrivarci. Che cos'è che ci rimetterebbe di più? Quelli piccoli, cioè quelli che non hanno ancora una statura. Quindi la SIAE protegge la crescita in qualche modo. Ecco. Senta, lei ha detto: mi batterò affinché quello del musicista sia considerato a pieno titolo un lavoro. Ma chi è che lo nega? La gente. Negano il fatto che sia un lavoro. Nell'accezione italiana, se non fatichi davvero con le braccia, se non spali della terra, non è un lavoro. Senta, anche il tuo non è un lavoro. No, lo dicono sempre, infatti. Appunto. Ecco, ma la SIAE oggi combatte una battaglia per tutelare e far riconoscere, lo stiamo dicendo, il diritto d'autore su tutte le piattaforme della distribuzione dei contenuti. Sì. Ma è una battaglia che si può vincere? Domanda. Cioè, la SIAE è Davide contro Golia. No, un Golia, 25 Golia, cioè 25 multinazionali di vario tipo. Cioè Davide, che ha vinto una volta sola, era contro un solo Golia. Contro un solo Golia noi abbiamo 25. 25 che sulla strada della volontà di questi 25 di togliere di mezzo il diritto d'autore, l'ostacolo più grosso è la SIAE, perché è la rappresentazione di questa... Quindi è una battaglia contro la libertà, voler abbattere la SIAE. Però c'è un fatto che Quelli che parlano di questa cosa hanno già cominciato a dire su questi soldi sono una tassa che aumenterà il costo del prodotto. Non è vero, la tassa non è una tassa, è un compenso, uno stipendio per coloro che creano, e non solo, ma è un minor guadagno per la multinazionale. La quale multinazionale è una signora che non dà occupazione in Italia perché costruisce all'estero. Non paga le tasse. Non paga le tasse e non lascia un soldo perfché la sede è in Irlanda. E qua certo, le Cayman, lo sappiamo. Dall'altra parte ci sono 2,5 milioni di persone che lavorano nell'indotto della musica. E che vivono dei proventi della sede. E che sono il 5,5% del PIL nazionale. Senta, ma il web è solo un consumatore di contenuti o potrebbe diventare in questa logica anche un luogo di tutela? Un luogo di tutela in questo senso sarebbe difficile, se non un luogo di tutela dove i gruppi economici schiavizzano in qualche maniera coloro che lavorano. E torna allo stesso discorso. Prima, certo. Io che sono noto... Me la cavo, tratto. Quello non noto, non tratta, c'è niente da fare. Subisce e basta. Cioè, però comunque a parole, nell'ipocrisia generale, si dice, più o meno tutti dicono che il diritto d'autore è una cosa importante, va difeso, però in realtà nessuno poi lo vuol pagare questo diritto d'autore. Questo perché? È molto italiano, perché tutti dicono che sono giuste le tasse, però nessuno le vuole pagare, cioè per questo. Quindi c'è un'ipocrisia generale. C'è un'ipocrisia generale. Tu mi avevi chiesto come penso di poter vincere questa battaglia contro i 25 Mogol, i 25 King Kong. La questione è politica, nel senso che l'unica persona che si alzerà in Parlamento o al governo dicendo io tutelo la cultura italiana, io sono quello che tra Davide e Golia mi ci metto io che proteggo la cultura italiana, proteggo l'economia italiana, proteggo non a caso il valore aggiunto della creatività, non a caso di questi pad eccetera, ce ne fosse uno costruito in Italia, non ce n'è. Perché? Perché è una concorrenza, uno che non paga. Ma insomma, quindi chi si alza sarà lui. Chi si alza? Io credo che devo trovare. Sarà lui Davide. Devo trovare un interlocutore politico che abbia il coraggio di proteggere la cultura italiana. Speriamo. Senta, ma dopo tanti anni ha capito come funziona l'ispirazione? Ma non, sì, più o meno sì, è un disturbo. Della mente? Sì. Vai, viene. Bipolare. È un disturbo che è un input esterno che ti crea un disagio, quel disagio mentale. Prima o poi tu cerchi di risolverlo la questione di base è che questo disturbo mentale è astratto e quindi scrivere è una traduzione e anche chiaramente un tradimento, quindi arrivi molto vicino a quello che avevi in testa come sensazione e come emozione, ma non ci arrivi mai, no, certo, assolutamente impossibile. Naturale, è l'assoluto quello che uno che ti ispira. Tiri a quello. Ecco, certo. Ma quando non c'è, però, invece, riaccenderla è un problema, perché è un disturbo, ma poi quando uno non è disturbato magari gli dispiace. Dipende da quanto tu sei ancora capace di emozionarti. È il fanciullino pascoliano. Cioè io sono uno che ha conservato il fanciullino pascoliano in se stesso e che vado verso la gente con le mani aperte. Chiaramente l'esperienza invece perché... Vabbè, ma l'esperienza poi dopo, anche se ti insegna che c'è durezza, non è che questo spegne il fanciullino, sì. Anzi, delle volte lo fa diventare ancora più luminoso. No, la diffidenza verso gli altri, è una cosa che spegne qualsiasi cosa, sono d'accordo. Ecco, ma soffre lei quando manca questo fanciullino, sta lì a dormire, non si esprime tanto? Non soffro per niente, perché io ho anche tempo per vivere. Certo, perché impegna, ma ci sono luoghi o no dell'ispirazione? No. Solo momenti? No, ci sono, sono input che possono arrivare da un tramonto, come dicevano i vecchi macchiaioli, o che può venire da qualsiasi cosa, da qualsiasi la cosa. Natura la dall'osservazione, natura... l'emozione dell'osservazione, sì, certo, ah. È informazione, entra, certo, delle cose e tu non ti accorgi, tu le neanche... traduci, le traduci nella tua l'unico, cosa. L'unico guaio, secondo me, ha a che fare con la soglia critica di Popper, insomma, cioè che l'informazione è troppa, mm, e quindi poi prima che sedimenti e produca emozione è un casino, è sì, un problema. Ecco, ma vengono prima le parole o la melodia in un'ispirazione? Beh, io sono un caso particolare, a me viene la frase melodica e poetica. Beh, lì è un discorso lunghissimo su no quanto... ma detto in due parole? Detto in due parole è difficile, cioè, no? Io credo che dentro le parole e dentro le emozioni ci sia una musica, cioè dentro una parola c'è una musica. È la storia del modulo. Il modulo ti costringe, cioè dentro a una parola c'è una melodia e la parola subito dopo deve essere, può essere solo quella, la nota dopo quella può essere, insomma, per fare un esempio semplice, dan dan dan dan, dan dan dan dan, da lì in poi è tutto già scritto. Ah, perfetto. Cioè quella premessa lì è un modulo che ti dà già che la conseguenza, ti schiavizza fino in fondo, ecco. Cioè la più grande libertà di un artista è la schiavitù del modulo. Certo, questo tutti i musicisti lo dicono, eh? Se ti vuole. Senta, ma se dovesse salvare una sola delle sue canzoni bellissime, quale salverebbe? Nell'ottica di quello che ho detto prima, ma... Sassi. Sassi. Ed è Sassi sempre oppure oggi Sassi e domani un'altra? No, è sempre la stessa. È sempre la stessa perché Sassi è la più vicina a quell'emozione che avevo in testa. Ce ne sono più belle, sì, non sto dicendo... Ma, no, non ho detto la più bella, infatti. Perché è la più vicina a quell'assoluto di quell'attimo. Esatto. Grazie. Prego. Mix 24. 9:34 e 12 secondi, 800 24 00 24 il nostro numero verde, 349 238 6666. Mario, qual è il titolo dell'intervista di Gino Paoli? Il ben disturbato. Il ben disturbato. Pietrangelo. Tutto. L'ispirazione un disturbo sarebbe un titolo, ma già me l'ha fregato. Te l'ha Mario fregato. Allora farei l'unico dei quattro amici al bar che manca è Bruno Lauzi. Che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sei la frase d'amore cominciata. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Proprio mai. Il mio sempre, inquietudine. Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, hai visto mai. Tu sei come il vento che porta i violini e le rose. Caramelle, non ne voglio più. Pietrangelo, ti ha ispirato San Valentino? Più che San Valentino, il massacro di San Valentino. Immaginando quello che è successo ieri, oggi inizia l'era Renzi. E nell'avvio dell'era di Renzi tutti potremmo divertirci a fare un elenco di contraddizioni delle cose dette dal Matteo suddetto e poi smentite dai fatti del Matteo suddetto. Però mi sono fatto un convincimento, e cioè che lui non è in contraddizione. Lui ristabilisce un parametro rispetto al principio di non contraddizione, perché in realtà, essendo lui il mago del piritollame, lui non fa altro che aggiornamenti, come si dice, Mario, up to date, cioè, up to date, ecco, lui in fa, real time, lui in real time fa l'up to date e quindi aggiorna se stesso con un'app apposta, che tutti i piritolli da oggi avranno negli iPhone. Per un politico è una grande capacità. Accidenti, in insomma, diciamo che oggi, da oggi, come? Comincia la staffetta di San Valentino. A proposito, io sono contro San Valentino. A proposito, sì, è contro le staffette, allora contro la festa, tutte queste feste assurde. Io farei un elenco di da togliere feste, allora festa i della cuoricini, mamma, festa del papà, festa dei fidanzati, sono d'accordo, festa dei nonni, ora comincia a dire le feste civili, così arrivano a Digos, quelle feste da togliere. Mi hanno spento il microfono. Che cosa bolle in pentola, Mario? Vabbè. Stiamo cercando cibo. Nanzola, cala cocchidù. Per me, soutien. Cibo. Ciao. No. Vuoi parlare con Gatto? Sakulki pentu. Dene. Sì. Sette anni in Tibet, Zen, Letta che cerca cibo. Insomma, noi la prendiamo a ridere, però vatti proprio a filare degli amici. Il voto della direzione del PD è finito 136 a 16, Giovanni. È per questo che tu 136 hai... a sì, 16, va sì, meditato. E hai, come dire, sei stato un po' veggente perché Gino Paoli... Eravamo quattro amici là, che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più. Il buon Zucconi sul suo Twitter ha detto: ma vediamo quanti ne restano di questi 136 a maggio. Vediamo. La telenovela continua. La politica. Storace ha detto: calma, tra sei mesi sarà la volta di Cooperlo. Esageriamo. Beh, ai miracoli non c'è fine, però insomma non per penso. Tornare ad Alema bisogna fare un giro lungo. Molto lungo. Bisogna avere pazienza. Vabbè, insomma, questo è il punto. Nei salamini di oggi non posso non citare ancora una volta, è un gradito rientro, Balzac, che su Repubblica si firma Carmelo lo Papa. È tornato Balzac con lo pseudonimo di Carmelo lo Papa, con una pagina deliziosa dove rivela un colpo di scena, o comunque una sorpresa, un dettaglio fantastico in questa nostra Italia, e cioè che al Quirinale per le consultazioni andrà Silvio Berlusconi in persona. Naturalmente, perché noi parliamo in punto di realpolitik, certo. Però c'è il pollaio querulo dei ditini alzati che perché è un pregiudicato, no, perché è un senatore che è stato cacciato, no, insomma, si aggiungono alle tante parole che occorrono alla politica. Ma a proposito di parole, io non posso non qui fare un monumento a Marco Taradash, che oggi ha fatto un tweet delizioso. Cosa ha scritto Marco? Alan Friedman, il primo americano che è riuscito a vendere il Colosseo agli italiani. Conoscendo Alan è vero. Com'è che faceva Stanlio? Stanlio. Adon me ne voglio tutti che credono. E questo ovviamente è dedicato a Napolitano quando dovrà vedersela col cavaliere. Comunque io volevo dirvi una cosa. Intanto, sai, non si è ancora dimesso, si dimetterà. Per cui vale forse la pena ricordarsi che Baglioni diceva: passerotto, non andare via. Ricordati, povero il passerotto Letta, di Pio XII, ricordati il passerotto. Ne abbiamo parlato ieri, basta. Senti, crudele, senti, Mario. Senti. Allora, il passerotto andrà via perché salirà. Sei crudele, veramente. La politica, dai, su, tocca un po' a tutti. Allora, e invece quelli che stanno arrivando sono i dati del PIL. Arriveranno anche le stime preliminari dell'Italia. Per ora la Germania fa un più 0,4%, la Francia un più 0,3%, entrambi sono leggermente al di sopra delle stime. È una crescita, è un dato positivo, naturalmente è una crescita piccola. E in più le prospettive della Germania sono molto buone, quelle della Francia sono così, per non dire cattive, diciamo, per il 2014, quelle dell'Italia, non si sa, vediamo. Dipende da che cosa farà, appunto, Renzi. Nel frattempo piove! Mazzao. Nel Regno Unito, hai visto, sono sommersi, quindi piove, non sulle Tamerici, questo lo dico a beneficio dell'amico Buttafuoco. Chi era? Gabriele D'Annunzio, la pioggia bravo, nel Pineto. Bravo. E questi sono i fondamentali. Bravo. Non si scappa. Non si scherza. Adesso sentiremo il nostro canzoniere tra poco. Oh, e preparati. La cosa interessante, oltre al disastro che tutti avete visto nelle televisioni eccetera, è che si è aperto un dibattito sugli aiuti del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, cioè gli inglesi vorrebbero accedervi. Però tra i conservatori, tra i tori, si è aperto un grosso dibattito. I soldi dell'Unione Europea? Giammai. Noi siamo inglesi. Va seguito perché è un caso di politica alluvionata. Chi di voi è mai stato a Macao? Non era no, la trasmissione Macao, di Alba no. Parietti, dove ci fu una puntata Macao, meravigliosa Macao, con la, Carmelo Bene. Il grande a Macao. Successo. A Macao, come no? Sì, sì. Era di Boncompagni. Strano che sì. Carmelo Bene non fosse, di ancora, compagni, di non fosse ancora venuto fuori. E beh, interessante, posto interessante Macao, perché io ci sono stato molti anni fa, quando ero giovane. È un po' la Las Vegas dell'Oriente e un gruppo sta costruendo una piccola sala giochi, 700 tavoli e 1200 slot machine. 4 miliardi di dollari di investimento, hanno già costruito una Venezia virtuale, imiteranno Versailles. La cosa interessante è che sono fatti positivi anche per le aziende italiane. Uno cioè? Dei partner è un marchio italiano, la Gianni Versace S.p.A. Ah. Quindi in Oriente si fa, non si è fa. Che si fanno, si fa. Si fanno molte cose. Naturalmente c'è bisogno di automazione. I robot non provano paura, non provano niente. Non hanno fame, non devono dormire. Io sì. Ho persino sognato alcune volte. Gli esseri umani sognano quando dormono. Anche i cani sognano, ma tu no, tu sei solo una macchina. Allora, Io Robot è un bellissimo film, tratto tra l'altro da un'opera fondamentale di Isaac Asimov. La cosa bella che cos'è? Che la leghiamo a una notizia che viene da Harvard, dove un team di ingegneri ha realizzato un robot con dei sì. piccoli, ha realizzato un progetto con dei piccoli robot che sono capaci di costruire strutture complesse. I robot in realtà non hanno una gran complessità, cioè fanno delle operazioni elementari. Ma lavorando in team riescono a produrre appunto questi progetti molto complessi. Sai a che cosa si sono ispirati gli ingegneri di Harvard? Alle termiti. Ne hanno studiato il comportamento. Sì, molto interessante. Ne hanno studiato il comportamento e poi hanno scritto un programma al computer che lo emulasse. La natura dolce. Beh, come la buona un po' notizia... si fece con le api. Ah. Sì, esatto. Beh, sai, la natura offre delle metafore pazzesche. 800 24 00 24 349 238 6666. Canzoniere. Facile, oggi facilissimo. Vai. Vado? Prova. Vado? Sì. Su per le calli, torturando i calli, le valli e le convalli, rammento te, elettricia mia, quando papè Satan, papà Satan, Aleppe, la miseria grai, piangere in sulle scale. E Madonna. Lei, quel tal signore che va con me sul tramvai, eccetera. 800 complicatissimo. 800 24 00 24. Mix 24 800 24 00 24 numero SMS 349 238 6666. Nel frattempo Pietrangelo è scappato perché si vergognava per la proposta che ha fatto. C'è qualche risposta? Sara, c'è qualche risposta? Sono difficili. Ah, non telefonano, non sanno. Va bene, noi andiamo avanti con le nostre bolle. Decolliamo. Sono chiaro, non assumo laureati. Sì, ma guardi, è un errore di gioventù del quale sono profondamente consapevole. Io qui tra massimo 6 mesi divento cameriere, 700 euro al mese. Io te li faccio. È un consiglio, è un film, si chiama Smetto quando voglio. Sono un gruppo di laureati, di studiosi che non trovano lavoro, sono disoccupati e diventano un po' banditelli. Molto divertente. Si inventano una droga. Possiamo decollare un minuto? Un neanche? Minuto. Un minuto. Ok, solo per dire questo, che i giganti asiatici dell'aviazione hanno numeri impressionanti, Giovanni. 47 compagnie aeree low cost, hanno una flotta di 1000 aerei, ne hanno ordinato 1500 nuovi. È una sfida che riguarda tutti. Nel frattempo Alitalia ha firmato l'accordo per i nuovi esuberi. 1900. E quindi si può fare l'accordo con gli altri. Speriamo in fretta, subito, perché come vedi è un settore dell'industria dove chi aspetta è morto. Professor Simonelli, dov'era il canone? Buongiorno, dov'era il canone ieri sera? Ma ieri pomeriggio sicuramente il canone era su quelle reti, prevalentemente All News, che hanno trasmesso in diretta la riunione del Partito Democratico, dove è stato deciso il cambio di leader del governo. La staffetta di San Valentino. Non che questo sia uno spettacolo particolarmente gradevole, né particolarmente... Soprattutto c'è poco da raccontare. C'è poco da raccontare, anche perché si sapeva già tutto un po' in precedenza, ma questo insomma fa un po' parte di queste liturgie politiche. Però dico questo... Però posso dire una cosa, professore? Prego. Ecco, ieri sera proprio i talk hanno dimostrato la pochezza dei talk. Ecco, stavo per dirlo io, mi ha rubato. Scusa. Perché ieri è stata una giornata decisiva. C'era nulla. Perché finalmente è stato smascherato il re che è nudo. Il re è nudo, bravo. I talk non servono a nulla. Sì. I talk hanno macinato in questi anni quella che a Milano si chiama la fuffa. Sì, perché che cosa è successo? È successo che i talk sono stati impostati su una strategia, su un modello dello scontro. Sai chi è che l'ha inventati? Funari con la bocca aperta. Ma Funari, Gianfranco Funari con la bocca aperta. No, sì. Biscardi. Funari viene prima. Prima Funari. Viene prima Funari. Prima del processo. 82. Siamo lì, eh? Ah, vabbè, siamo professore, lì. Professore, siamo andiamo lì. Avanti. Io segnalo agli ascoltatori uno scontro tra titani sulla storia della televisione. Andiamo avanti. C'è il vincitore. Ah, vincitore. Chi è il vincitore? Da Viterbo. Come si chiama? Come ti chiami? Sabrina. Sabrina, vincitore perché? Cosa dici? Cos'era? È la canzone delle cose morte di Ettore Petrolini. Bravissima. Grazie. Applausi a Sabrina. Grazie a voi, buongiorno. Allora professore, non glielo chiedo, lei non lo sapeva, lo so. Vada avanti. Non lo sapevo. Avevo indovinato ieri. Voi mi interpellate sempre quando io non lo so. Quando lo so non mi chiamate. Ieri avevo indovinato Heidegger e oggi non Petrolini. Va bene, vada avanti professore. Ci racconti la morte del talk ieri. Questa struttura si è capito che sono consumati. No, ma sai cos'è? È una colonna sonora di rumore. Sì. Di rumore. E poi tutto è nato da un equivoco. Noi abbiamo sempre pensato di vivere in una cosiddetta, adesso io entro in politica, in una cosiddetta sedicente seconda repubblica. Ma quello che è accaduto è una cosa tipica della prima repubblica. Un partito sfiducia il leader che ha designato e al suo interno propone un altro leader. Questa cosa qui è sfuggita e sfugge completamente alla dinamica del talk, che ripete una dinamica bipolare che mette maggioranza contro opposizione. E quindi ieri è stata sancita la fine dei talk. Invece faccio una domanda. Dica. Vediamo. Questo uso della parola staffetta con una connotazione un pochettino negativa, di ambiguità, perché la staffetta è una cosa che invece è prevista come virtuosa. Io passo il testimone. Per quando vincere la gara. Quando è nata l'idea di staffetta come qualcosa che Craxi non va bene? Craxi Demita, non lo so, mi sembra, se ricordo bene. Sì. La staffetta presunta che poi non fu neanche rispettata, un grande, insomma, fa parte del politichese stretto questo nasce però da Mazzola e Rivera 1970. Bravo, grazie professore. Lunedì è andato in onda su Rai 1 la fiction in una puntata sola, L'oro di Scampia, ha fatto il 23,85 di share, un successo. Sara Tardelli ha intervistato chi ha ispirato questa storia. La storia è liberamente ispirata a lei e a suo figlio Pino. A me e a mio figlio Pino. Esatto. Il percorso che abbiamo fatto da quando abitavamo alle Vele fino al 2000. Fino all'oro alle Olimpiadi di Sydney. Com'è stato vedere la propria vita però interpretata da un altro in televisione? Ho visto un uomo che mi rassomiglia molto. sia nei suoi occhi che nelle sue espressioni. Che cosa le ha dato la forza di non mollare? Il mio vissuto. Cioè? Perché da piccolo io ho abitato nei rioni popolari di Scampia. Ho visto morire tanti amici miei. Io sono un uomo fortunato, ho preso un posto di lavoro a 18 anni, ho vinto l'Olimpiadi e quindi ho pensato che la mia fortuna la dovevo dividere con gli altri. Secondo lei, diciamo, la chiave di tutto è il lavoro? Credo che possiamo togliere la criminalità solo con la prevenzione, con i bambini e con lo sport, e con i grandi dando la dignità, potendo guadagnare qualcosa e non chiedere la carità o andando a fare cose che non devono fare. O non lavorando per la camorra. Senta, il presidente del CONI Malagò ha donato il suo primo stipendio alla vostra palestra, ma poi concretamente vi ha assicurato qualcosa? Quando abbiamo vinto la medaglia d'oro a Sydney, Malagò mi ha chiamato lui di sera tramite la segreteria e mi ha detto di cosa hai bisogno. Io gli ho detto che il mio sogno è quello di portare 4.500 ragazzi a fare sport nelle caserme dismesse che stanno a Scampia. Quindi farete questa cittadella dello sport? Questa, voglio, è questo il patto con Malagò? Credo. Lo voglio e lo credo. Voi che siete l'informazione, i media, non ci dovete abbandonare. Combattere sul tappeto insegna ai ragazzi anche a combattere nella vita? Adesso, nel momento che le stiamo parlando io e lei, ci sono dei bambini ciechi e ipovedenti sul tappeto. Il judo è bambini ipovedenti e non vedenti da sicurezza, stima e una grande forza interiore. Con la sua attività e la sua palestra ha passato dei momenti molto difficili, io me lo ricordo. Sara, ancora, Sara, ci sono i momenti difficili, ci saranno sempre. Io guadagno 3.000 euro con 450 persone. Però ci sono 70.000 euro di spese e se non ci fossero delle persone che mi danno ogni tanto dei bonifici, 100 e 200 euro, io non potrei andare avanti. Nella sua esperienza diretta di vita, come è intervenuta la camorra? La camorra vera non è quella che fanno capire questi padiglioni, la camorra è quella delle istituzioni che non aiutano le persone. Io non faccio altro che dare una mano al quartiere, alla povera gente. In bocca al lupo. Grazie a lei. A 10 anni dalla scomparsa ricordiamo un grande campione. La storia di Marco Pantani nel racconto di Marina Milone, un pirata vero, sempre in bilico tra il bene e il male.